Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Torniamo anche in questa puntata e con maggiori particolari sul nuovo sito piattaforma www.esperienzedivolontariato.it, di cui già abbiamo fatto cenno nella scorsa puntata. L'estate che ormai sta iniziando, per molti giovani è un momento opportuno per dedicare del tempo e delle energie anche ad attività ed esperienze di volontariato. Le motivazioni sono le più diverse, ma si raccolgono tutte nella frase mettersi a servizio dell'altro e della società. La Caritas di Padova negli ultimi anni aveva proposto diversi strumenti indirizzati e rivolti ai giovani per informarli sulle diverse proposte e occasioni a disposizione sia nel territorio diocesano che nazionale, con qualche possibilità anche all'estero. Veniva pubblicato un opuscolo che però aveva il problema di non poter essere aggiornato. Ora, col supporto e contributo della Caritas italiana, il sostegno dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, la Caritas di Padova ha attuato un salto di qualità, puntando a raggiungere più giovani e a fornire un'informazione più strutturata e ricca di proposte. Ha promosso, appunto, come già anticipavamo la scorsa settimana, un nuovo strumento interattivo, e questa è la particolarità, perché si possono aggiungere, segnalare anche delle proposte. Sono già più di un centinaio quelle censite, dai servizi alla disabilità, l'animazione di campi estivi, campi di lavoro, proposte all'estero, dal Kosovo alla Grecia, al Libano, l'Albania, il Marocco. Una trentina i promotori già registrati, tra cui numerose Caritas diocesane, un centinaio le visite quotidiane da parte di utenti in tutta Italia, ma ovviamente è un trend in crescita. Don Luca Facco, direttore della Caritas, già si parlava di esperienze di volontariato, adesso è nata questa realtà, un sito internet però molto più strutturato. Sì, è un'evoluzione che risponde a un bisogno che i giovani fanno, quello di chiamare in Caritas per chiedere esperienze di volontariato durante l'estate, oltre che il Capodanno. E allora abbiamo proprio fatto un'evoluzione da un libretto cartaceo, adesso un sito internet che raccoglie esperienze di volontariato realizzate dalle Caritas delle diocesi dell'Italia e altre esperienze, dove l'obiettivo è dare l'occasione, l'opportunità di incontrare giovani e realtà di povertà, di bisogno presenti in tutta l'Italia. Quindi c'è voglia tra i giovani di fare volontariato e di mettersi a disposizione? Sì, sì, questa è la cosa più interessante. Noi intercettiamo proprio giovani che proprio chiamano, chiedono, gruppi giovanili, e c'è voglia, c'è desiderio, e credo che ci sia un grande fermento da parte di giovani che vogliono proprio vedere con i propri occhi, toccare con le proprie mani cosa sta succedendo in tante parti dell'Italia. Sono occasioni anche per scoprire magari in realtà anche vicinissime, anche in città, senza andare necessariamente all'estero. Sì, sì, noi raccogliamo sia esperienze all'estero, ma raccogliamo esperienze, avrete modo di vedere nel sito, anche in varie parti d'Italia, anche in luoghi proprio molto interessanti, dove si può proprio andare a vedere e incontrare. L'esperienza che almeno che noi vediamo dal nostro punto di vista è di giovani che hanno voglia di, proprio in prima persona, di vedere, di incontrare, di farsi un'idea e anche dare una risposta, proprio giovani che vogliono dire non basta sapere, vogliamo anche fare qualcosa, quello che possiamo fare lo facciamo. E credo che un'esperienza di volontariato di una settimana concretamente sia un segnale positivo. Noi quest'anno abbiamo raccolto le esperienze presenti offerte dalle Caritas diocesane, che sono sia in Italia sia all'estero. Il nostro desiderio è sempre più di far fare ai giovani anche esperienze sempre più all'estero, perché l'idea è proprio di uscire da un malaprovincialismo. Bisogna proprio uscire, vedere, incontrare, rendersi conto che il mondo è grande, bisogna lavorare sul piccolo ma con una mentalità, con uno sguardo grande. Ecco l'idea anche di portare i giovani anche all'estero e vedere anche altre esperienze, non solo italiane ma anche europee e internazionali. Ci sono alcune esperienze che sono a cui bisogna dare un contributo, altre in cui è anche gratuito, ma certamente ci vuole anche una famiglia o in alcuni casi una comunità che sostenga la possibilità di far fare ai giovani un'esperienza altamente formativa. Questo sito esperienzedivolontariato.it nasce a ridosso dell'estate, ma vuol diventare un punto di riferimento nazionale per tutto l'anno, perché il volontariato non vive ovviamente solo d'estate, ma anche nel resto dell'anno. Bisogna mettere a disposizione tempo, competenze, impegno, volontà, e in questo sito si possono cercare e filtrare le varie proposte in base all'età, in base all'interesse, in base anche al prezzo, perché alcune sono gratuite, altre richiedono un contributo appunto per la realizzazione. Si può cercare per zona, per periodo, per settore di interesse. È un servizio che ha anche delle implicazioni pratiche, perché semplifica la gestione temporale della programmazione e la diffusione delle informazioni, cioè lì in un unico portale si trovano già diverse proposte, non serve andare tanto in cerca spendendo anche molto tempo, e nel lungo periodo abbatte i costi iniziali dello strumento. Vengono ridotte anche le spese dei promotori delle iniziative, che in questo modo hanno un mezzo gratis a disposizione. Metti in circolo il tuo amore, 5 motivi per scegliere il volontariato, li avevamo già citati ma li ricordiamo, poi comprendersi, cambiare, arricchirsi e restituire dignità. Il sito è attivo, si può contribuire a implementarlo e a migliorarlo, e soprattutto a cercare informazioni per qualche esperienza adesso nel periodo estivo o anche nei periodi successivi, qui vicino a casa o anche in altre parti d'Italia o all'estero. www.esperienzadivolontariato.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.